10-0 di FB. Oi, buonasera. 10-0 di FB, com'è? Sì, com'è? Grande a me. Però sei in 27. Sì, vabbè, una vale l'altra, per me non già cambia. Posso anche entrare a 5-25, 40 metri. Buonasera, 10-0 Sparviero. Non è la prima volta. Ahimè. Non metto, che nome nativo è? Sei dello Sparviero. Sparviero, guardate, ma è logico, che ti ha pure un coglionino, ho 80 anni. L'ha trovato scherzando, quello lo usa in 27, io sono ISL di FB. Ah, ecco, ecco, adesso vedo, vedo, vedimi di andare a far culo. Ho URT, io non sento niente, ho più di URT, ISL dello Sparviero, ISL di FB, sento nome nativo, ero già arrivato. Arrivati in nulla. Tutto fa a brodo. Vabbè, che si dice qua? Sta a posto. Sta a posto. Ci sono io solo qua. Pare chi sei, usuru. Chi c'ho qua, qui c'ha il QRM. Poca gente c'è. No, ieri ero sul 20, stavo facendo le prove. Cioè, mi stava riparando un microfono, Fabrizio. E poi mi mancata la luce. Poi è tornato, ho chiamato e non c'era più nessuno. Stanno facendo i lavori in cabina, i figli di ragazza non avvisano neanche. Mi mancata la luce. Poi l'ho ripreso e non c'è nessuno. Cappa. Uiaia. Quello è zero. Per non essere schiavi dalla corrente elettrica non si potrebbe fare con il pannello solare. Ci sono i pannelli solari, però non sono i nostri, sono dei vigili del fuoco. Adesso sta funzionando, però Natali, se tu lo vuoi ascoltare bene, se non lo reciti, ti metti sul link, sul transponder, dei punti, a 435 525, cioè a 432 525, non reciti senza niente, schiacci e ti arriva la colla del ponte. Io non lo mica recito da qua, non recito, perché è un bel sordo. E allora mi metto a 432 525 e uso il transponder, capito? Ho capito. Natali! Aspetta, ma... Eia. No, perché un regolatore ce l'ha un amico mio. Un pannello da 100 watt dice che costa 65 euro. Non si può mettere un pannello, così non cala mai la situazione. Cosa nota lì? Per ovviare alla corrente che si stacca, a mettere un impianto con i pannelli solari, lì tanto un pannello costa 65 euro, uno da 100 watt, mi stava dicendo un amico, il regolatore ce l'ha lui di carica, basta buni una batteria e stai andando. Ma adesso non penso che c'era un problema, capite? Adesso c'è l'impianto fusion nuovo, ho messo qua nuovo, c'è l'impianto digitale, non ci sono manco radio, c'è direttamente il ripetitore fusion con la radio incorporata, quindi in automatico, capito? Prima si staccava, le radio erano vecchie, non si accendevano, adesso già si accende. C'è il problema è che abbiamo un problema di antenna, dobbiamo riandarci a mettere le antenne nuove. Capito mia? Vabbè, comunque se tu lo vuoi sentire bene, ti metti a 432 525 sul trasponder. Non hai problemi. Lì non c'è tono, non c'è niente, è libero, capito? E vari punti, anche col portatile lo senti. Non problema. Vabbè, flipper. Sono stato poco fa, cioè che era, mi sono collegato stamattina, è entrata l'aria alle tre, immaginate, perché anche noi siamo ricevuti per avvisarvi, per preparare la colazione perché alle 6 doveva riuscire, è una lotta per la sopravvivenza in questa casa, non si dorme più, io senti Natali, a colore del ponte. Quello è 432 525, sto ascoltando io. Ti ho mandato quelle cose che mi ha chiesto, ma sì, l'hai vista? Sì, io. Ok, adesso lavoraci. E continua a cercare questo cacchio di cose che ti ho detto, perché io veramente, porca miseria. Non è facile. Ma poi ti aveva risposto, ti aveva proprio detto che non spedisce in Italia, così è. L'ultimo messaggio l'ho mandato a te, ero a giù riposo, ma spedisci in Italia o non spedisci? Capito? Non ho più risposto. Lascia via il culo, è il culo, ma chi vuol dire non vuole prendere avanti Natalia? E aspetta un attimo che sto guardando una cosa. Gappa. Tu capito, c'era qualcosa in quel microfono lui? E che cosa era? È un condensatore mezzo andato. Come sottolino un mezzo andato e soffiava. Quelli quando iniziano a partire si gonfiano. Cappa, meglio così. No, ma c'è nuovo, l'ho provato. Alla grande. Non c'è più roba. Ci vedremo questi giorni, ma lo faccio là, così lo provo, ma l'ha già provato lui, è perfetto. Sciogliete. Casino. Claudio, sì. Ma il link nazionale non sta più funzionando. Ah, buona, cari. Non lo so. Penso di no, comunque l'avevano staccato per problemi di... non so cosa è successo. Un rosaccio. Sono il cubo piriolo. Poco fa ho sentito un pipiriolo. Pipiriolo? Sì. Si sente pipiriolo. Mi sta chiamando Anna. Ok. Ah, via, prima gnagna. Gnagna. E beh, Luca. E beh. E allora, che si dice? Beh, mi stavo preparando la roba da pesca. A chi ha piccato i nani? Adesso inizia il periodo di seppia, capito? La aging. Io ce l'ho la canna. C'ho un po' di canne da pesca qua. Un po'. È una pesca particolare, Natalino, mio è che puoi usare canne grosse o mulinelli grossi, è come lo spinning, ancora più light, diciamo. Mi conosco meglio di te, sa beccami. Dilla Claudio la strage che ha giovato di seppie. Chiappa. E adesso non ci posso più andare, a chi non posso camminare. Per andare a pescare io bisogna la trovi vicino a dove c'è la macchina, perché non è che posso fare molta strada. Col difetto che ho la gamba, lo sai come. Io ce l'ho la canna da aging, anche quella, c'ho le canne da lancio, le canne per andare al porto, ma lì non ci puoi più andare, che sennò ti arricciano. Ciucucciu. Mi, l'altro col pipiriolo, mi. Buongiorno. Belli scucciti tutti e due. Fischiando. Questa è la meno 95. Buonasera a tutti, come va? Già va bene, così spero che vada bene anche a lì. Tutto bene. Anda bene. Ciao Luca, anche a te, beh, sì, hai sentito? Ehi, tanto, è bene. Allora, come andiamo? Ma nessuno ti ha detto ancora che vai alternata, Luca. A me, no. Lo vedi Natalino com'è? Certo, è forte pure, cazzo, stacca quel cacchio di pedale, mettilo diretto al microfono, vattelo, mamma mia, ragazzi. Adesso vado con la massa e glielo distruggo. Cazzo, io mi attacca a 60 al pedale, cazzo. Diglielo tu, adesso pescare le seppie, diglielo. Sì, con le mani le pesca, Natalino. Addirittura. No, Natali, ma comunque non devi fare molta strada, 50 metri devi fare dalla macchina alla spiaggia. Certo, se non fai manco 50 metri, allora Natali si è messo malissimo, eh. Sì, messo male sono. Comunque 50 metri già li faccio. Quando è che andiamo? Sando di Biazzo. Io inizio a scenderci domani. Adesso vedo il meteo, perché mi sa che ha messo pioggia da stanotte. Eia, ha messo pioggia da stanotte, poi sabato diluvia, sabato e domenica piove. Allora com'è, Sammy? Mica è stato un poco. No, non ci parli io, un poco. Già l'ho visto stamattina. Vabbè, ma fa pompa. E beh, là. Tutto a posto. Ehi, a tardi te ne sei andato? No, mi sono bevuto quella birra che stavo bevendo, poi sono andato a fare, sono salito su a casa, preso su, ho fatto una spesa, anzi, prima ho mangiato, sono salito e sono sceso, mi sono fatto una spesa e poi sono risalito nuovo a casa e qua sono, capito? Io ancora mi raccontate sulla spiaggia, ho fatto pranzo, mangiato e poi qua c'è un crollato, mi sono sdraiato, mi ho obbligato ai zinco, stanco morto, ho dormito 2 ore ieri notte, cazzo, vedi qua ci stai andando benissimo, non ho capito perché fa alternata con qualcosa, con il pedale. Non lo so col pedale perché fa così. Devo controllare, non lo saccio. No, così va bene, la grande. Capito, Altari, non lo so. C'era stato un problema, quando ero ancora a Carbonazzi, io, sul link nazionale, l'avevamo staccato, non lo so, forse era bruciato, non me ne ammetto. Io non ci andavo quasi mai, la verità, a volte mettevo lì ad ascoltare, ma non ho mai parlato sul link nazionale perché maleducati. Sì, per ascoltare, te lo stavo chiedendo per quello, non mi ricordo manco più la frequenza dell'internazionale. Comunque quei due che ti avevo detto fondo scala qua. E beh, già lo credo. Già lo credo, quelli sono ottimi, arrivano benissimo. Ma se tu vuoi ascoltare anche la zero, perché abbiamo difficoltà tutti a transitare, addirittura manco un 50 watt si transita. C'è un problema che lascio, si risolverà sicuramente. Ti metti a 4.32 e 5.25, lo senti benissimo, a me arriva a fondo scala perché c'è il trasponder del water, capito? A lui gli arriva magari 9, 9 più 10, lo fa uscire in UHF al massimo, anche entro città lo senti. Capito? Infatti siamo qui, io mi sono posizionato io. Aspetta che mi squillo il telefono. Sì, ce l'ho nel ricevitore quella frequenza. Si fa vedere a uno, io lo intendo. Meglio. Ora, aspetta un attimo. Sto usando il Salenta, com'è? Peggio? Mi è sentito poco di casino dietro. Ma che radio stai usando? Il 140 sto usando. Non lo so. Vai, Natali. Sì. Anda bene Meda, oh signore, ma io devo cercare il modo di piazzarmi il dipolo, perché mi hanno bloccato il cavo della carrucola, allora devo sbloccarlo, sennò non posso fare nulla, perché c'è sulla carrucola col cavo per poterlo salire su dove c'è l'antenna. E perché hanno bloccato il cavo? E io è arrivato un casino, vabbè là, già risolverò la situazione. Piano piano già. Già te lo fai, non è quello il problema. Ok, va bene, adesso sto usando la tapparetto senza antenna, e quindi sentirai il televisore della camera da letto. si sente, sì. Il microfono è uno così dal salerno, così a metà e così a maletta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, guarda un po'. Sì, mettilo a metà, che se no esce casino. La segreta, 2 secondi, nello sweeper. Così va bene, 1,2, dovrebbe andare benissimo. Ehi, lo signor Luca, mi devi dire com'è la bobina di quell'antennino? Dove sei? Che fine hai fatto? Io lascio la canna da aging, dai. Cosa vuoi fare con quella bobina? Un'antenna ti vuoi costruire? Ehi, è un'antenna verticale di 40 metri. Piccolina e riceve però. Ah, ecco, adesso ho capito. E lui è Luca e se preparando la canna da pesca. Siamo rovinati. Ne ho una da 11 metri che hanno a pesca. C'ha il piantone a 3 pollici. Ma non così grande, lui ce l'ha piccola per i 40 metri. Mi serviva a sapere le misure della bobina, già me le dice un altro momento. Così me la faccio. No, è piccola come antenna, però riceve bene, ho visto, in 40 metri. Oh, cla. E anch'io la devo fare, ma ho banda per i 40, però è un bel grande, dimmi. Questo è il 43, attaccato al pedale. Bene, sta andando. Sì, perfetto, questa bellissima modulazione. Aspetta però, il pedale è spento. Adesso te l'accendo, vedi un po' se si sente quello alternato. Ok, adesso è col pedale, vedi un po' com'è, 1, 2, 3. No, va bene, schiaccia senza parlare. Ma non è che la radio, aspetta, il ricevitore. Così lo spento. No, c'è alternata, è il pedale allora. È il pedale. Magari devi abbassare appena appena il mixer. No, non sto usando il mixer, sto usando il pedale. Allora, aspetta un attimino. Queste sono le impostazioni. Ecco, forse. Vedi un po', forse così si sente di meno. Sempre il microfono normale questo, eh. Ecco, io sento quasi niente, va bene. Mentre sì. Guarda se è più cupa così, se va bene, là. O com'è? No, va bene, non toccare, non stare a toccare. Se stai giù va bene, la sviluppendi. Allora spinge, la spinge. Allora, ritorniamo senza pedale, 1, 2, 3, 1, 2, 3 col pedale K. Da 50 al 100% passi. E con tutto al minimo. Adesso è a 3, il volume è a 3, abbasso. No, abbassa troppo forte. Non aumentare però, se no è brutto, lasciala com'era. Eia, ma fate gli occhi a Santonello, ma che radio sta usando? Ma 240 agita, non è possibile. Ok, che differenza c'è? Questo 140 davvero, non è scherzando. Sto usando questa delta adesso con lo cavetto. Qua esci meglio col microfono normale, non pazziru che si usa delta e non andarei. Ottimo, non è MB più 4, cavolo! Tutto cru cru crac crac crac, si intendi, si riesce a mettere nel bocco di gosi. Ma il microfono ho trovato io, Antonello, MB più 5 per il K, dov'è? E' qua, non sai che difetto c'è, no? Se tocco la lamiera si abbassa di modulazione. È solo per quello che l'ho staccato momentaneamente. Posso mettere l'M95, l'MB più 4 te l'ho anche detto, ce l'ho. Solo che devo fare la computatura inversa dal 4000 al 3009 e posso tranquillamente lanciare il MB più 4. Se non lo fa col microfono normale va a fare un certo punto. No, ma cacciato bene col Sciavezza il K, non c'è problema, non è una grandissima radio, ma va bene, per me va bene. Il problema che lo sai che se io sollevo si sente tutto il qua, senti, ripeto, che arriva da fuori, senti dalla finestra tutto si sente, sembra che sono in mezzo strada, quindi è a uno, allora senti, ripeto che arriva, senti il come stare, ma c'è la finestra aperta e il microfono dalla parte opposta, figurati. No, mettilo com'era che già andava bene, tienilo basso e io c'ho quello lì che già va bene, in alternativa uso il microfono normale, capito? Già va bene. Aspetta che se ha sollevato le cose, allora facciamo così. Allora, passato il mic nel cable e sollevo appena per il microfono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, va bene, lascialo così, già stai scendo bene. Avanti tu. Io pensavo che eri morto. non sento spinta, però. Le tue orecchie, ce l'ha basso, ce l'ha sotto la c'è il micchichino a metà e l'ho fatto regolato io così, perché se no si sente tutto il coso di casa, capito? Già va bene così, la sede del tranquillo Antonio, già va bene, già spinge quella radio, se deve spingere non ti preoccupare, vai Natali. Peccato non posso usare quel microfono là. Guarda, vabbè, là, ma pure questo già va bene, l'MB più 4 andava bene. Sì, la voglia che va bene, ce n'è per i maiali. Mettici 60, Natalino. Questo è normale, aspetta un attimino, e ce l'ho in pratica nella I. Adesso è a manettone, va bene? No, ce l'ho sotto la C col microfono normale, tutta a manetta, processione scelto, mi chiedi a manetta che va bene. No, il processore già inserito, già, così è staccato, 1, 2, 3, e così è agganciato, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, lascialo, va benissimo, usa il microfono normale col mi chiedi a massimo, vai. Eia, uscendo sto sì, ok, sì. E la stessa modulazione di Antonello Ciaimi, così, col microfono normale, va bene, senza spinta, vanno bene tutte e due. E io sono con 60, a me. No, qua sì, con 60. No, anche prima ero 60, solo che quando uso il pedale devo disattivare il tastino. K, va bene. No, secondo me io col pedale spingo molto, molto di più di Antonello col microfono normale. Tu col pedale, ma senza pedale siete uguali. Tieni conto che tu c'hai un 30, lui c'è un 140. E il 30 spinge molto di più di me, che se fai un potenziometro e tu hai lo slider. Tieni conto, io ce l'ho massimo lo slider, il 140, adesso sto andando con il 140 e l'MC60. Cosa pensi che spinga? Si tratta con un 430 è il doppio. Antonio, portalo qua quel 140, ti faccio vedere che Claudio non trova la differenza. Sì, con un pedale però, ma è. Con un pedale, con il suo cianfrusaglia, chiamala come ti dibiazzi. Ma anche con 60 me ne accorgo, non c'è spinta, non c'è, capito, me ne accorgo. Quando è attaccato e non è attaccato. La stessa cosa che quando uso quello da studio, attaccato al mixer. Quello non ne hai invece 60, c'è il microfono normale. Aspetta, attacco l'MBP5. Attacca l'MBP5. principio a farglielo sentire a Vecipigni. Ma sta scherzando, c'è anche un buon passo a radio. Capo Cantineriano che dà su sei due, con la MC 60. Vai, tratta lì. Allora, questa è la MC 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niente, e lui non c'ha, non c'ha corda vocale, ma è pigni. L'unica cosa che ho cambiato è la capsula, la verità. Allora, pompa, come un treno. Figurati, è perfetto, mi sento tutto in cosa diretta, vabbè, non fa niente perché, no, senti, se faccio il verso così, si abbassano, senti come metto il dito sopra, nella maniera, tengo il dito e amplifica il doppio, no, va bene, è perfetto. Adesso i toni sono tutti a manetta, in alto, toni alti, l'amplificazione è a 10, vedi tu? No, no, no, i toni devi togliere e mettere a 0, o a 1, anzi metterli a 2 i toni. Sono a 2, vediamo se fa qua. Ecco fatto, sono a 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. No, togli del tutto i toni. Così, allora, 0, così intorno a 0, amplificazione a 10. Niente, troppo, se mi ricordo io se ce l'avevo a 1 il tono, comunque va bene, spingi un bel, non ti preoccupare, lascia il tagusci, vai Luca. Quindi va bene, anche se li metto qua le tori altri, dopo se è meglio, mi va, così, c'è la bella coloretta, chiara, c'ho dei picchi allucinanti, da 15 watt salgo a 50, figurati, e non è saletta questo, se metto in saletta lo crepo del tutto io a cosa. No, tali riprenditela. Adesso domani ne tolgo la canna da aging e me ne vado a Cippie. Sempre questo, scendi dove sto lavorando io, ti do la canna a pesca a 7 metri, quella che mi aveva lavorato, e vai a cosa, bulloni. Oh signor. Ui, ui. Lì dove vado qualche volta, lì c'ho tutta, sono sempre sotto al tetto, la verità, di quella casa, e vedo tutta l'Asinara, figurati. Infatti adesso io questo di fare un paio di buchi, ci metto la canna a pesca lì, l'apparecchio, mi scendo un apparecchio omologato e parlo da lì. A meno che non mi scendo questo, me. Mi rimetto a fare un po' di DX. Ma Luca, lo vedo. Già sono qua, stavo collegando quello da studio, già sono qua, K. Questo ti piace, Antonio? Sì, si è uscito bene. Questo è il microfono da studio attaccato al mixer. Questo usando il mixer, con i volumi tutti bassi, capito? Volumi bassi, se no Claudio, vedi, la pompa, se voglio pompare. Quanto voglio scendere, chi si te lo guarda? Beh, va così, a 1 è il secondo volume, qua. E il primo è sempre a 7, come l'abbiamo regolato. Ciao Stadio, ci intende niente, va vedendo la carriera. C'è la pizzeria vicino a Candito, casa sua, cioè, si sente tutto quello che fanno i pizzaioli. Gappa, aspetta. C'è un microfono che costa 2 euro, cazzo, ma 2 euro per modo di dire, ma porca miseria quanto va, sì, e sono tutto al minimo, capito? Posso regolare, Antonè, con questo mix posso regolare anche bassi, alti, medi, di tutto posso fare, capito? Guarda, vedi, in banda laterale, è di una comunità, il mixer in banda laterale, che non è un'idea, tu. Capito? Guarda. Vabbè, riprendi un Natali. Beati voi, io ho questo qui e manco canali faccio, non so darci 40 canali e buh. Ma il sesso è andato, ce l'hai Natali? No. Ah, non ce l'hai, pensavo ce l'avessi, capito, che l'avevi conservato. Cosa me ne posso? Se non faccio radio non me ne posso nulla manco di Rosa Santa. Anche a me non mi hai inteso con Rosa Santa il pedale. E con il baracchino. No, col baracchino no. Attaccare il 60 al baracchino. Cosa? Già fatto. Ti dà la stessa identica modulazione di 140 e giù di lì, capito? O col mixer o col pedale, hai capito? Perché te lo fa spingere. Aspetta un attimo. L'attacco al baracchino adesso. Ma perché se non ci spinta nel 60, capito, se non gli dai l'alimentazione non va. Cioè io ci attacco anche il 50 qua e tu non ti accorgi della differenza, capito? Ma è il mixer che lavora, capito? Perché il 50 circuito non ne ha. Io lo so. Chiave gara, quindi già va bene, già andava giusto per fare le prove, esperimenti. Faccio anche un'altra prova, ti stacco il processore e adesso vado solo di mixer, attento, sto andando solo di mixer con il processore disinserito, processore disinserito, aspetta, se no, vabbè, io sono in cuffia, mi sento diversamente da quello che mi senti tu. Devo ancora abbassare le uscite, vabbè, senza processore, tende a stoppare però, lo sai, guarda così. Aspetta che faccio così, vedi un po' se va meglio così. Ecco, vedi un po' dove? Lascia così che va bene, dai. È perfetto adesso. Questo qua tendeva a saltare, perlomeno. Ti sentivo così io. Ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi avete messo il pezzo di pentola a mettere il coglione domani. Si sente il meno. Ok, già va bene. Come si comporta adesso? Fischia. Stavi fischiando. Ma perché non ti metti una cuffia lì, Antonio, del microfono? Così no, non c'è vento, capito? Oh, e io come sto uscendo? Bene, stai uscendo bene. Bene. Luca, guarda un po' com'è la modulazione. Bellissima. Ma chi sono? È un K, il figlio di là. Ormai cos'è il K che non ne ho io. A parte che me ne sono accorto al segnale anche. Basta che non sia. Adesso c'è il segnale del K, boh. Sempre quello, Non è chissà. Così devi uscire sempre, allora di una fonte. E allora siamo così. Modulazione calda e corposa. Vai, pompo. Accendi qualcuno, e il meglio sono. Adesso posso andare a saletta. Oh! tutta una cosa diversa. Senti, tu mandi un messaggio oggi a Pomponi riguardo a Natale, se ti va bene, o Natale. Cosa, Lu? Tu mandi un messaggio oggi a Alessio, e lui lo guarda a Natale, e ti risponde a Ferragosto. Ma Pomponi è così, cosa ci vuoi fare? Adesso ho passato il Nike Game sulla C. Microfono salta. Penso che già vai bene, sì. No, ma rispondo nessuno, cane molti, cazzo. Guardati il messaggio, Antonio. Ma dammi. Certo, senza mente chiudato però il telefono. Sta quando? Aspetta. Ok, mi è arrivato il messaggio adesso. Ho capito. Aspetta. Adesso guarda. Sì, cazzo, questo è il mixer di studio, Con microfono. È un mixer di studio, è 20 ma 20 neanche, è piccolino, non lo vedi piccolino, vabbè, forse perché ti ho fatto una foto da vicino, aspetta, guarda, te l'ho mandata più distante. Quello lì sto usando adesso con quel microfono che vedi in foto. Adesso si vede che è più piccolo, adesso volevo prendere anch'io un mixer così, con effetto eco e l'effetto da donna, così faccio come faceva la buon'anima di quello che entrava una volta, faceva la voce da donna. E questa foto che ti ho mandato adesso è quello che stavo usando prima, capito? Che presso a poco è uguale, capito? Solo che uno è piccolino e l'altro è più grande, perché per l'altro ci puoi attaccare le casse, eccetera, eccetera. Già mi sentito anche col pedale, quello lì stavo usando prima, quello che ti ho mandato in foto. Cos'è questo tube amplificatore modella? Vediamo allora, livello, microfono, alto basso, amplificazione alto basso, driver. Non hai visto una cosa del genere? Ma cos'è il pedale questo? Sì, il pedale. Un pedale. Ah, ecco, non l'ho mai visto, detta. Già va bene. Ma non facevo bene Antonello con il mio P5. Non ho capito. No, Luca, sto dicendo. Non sto facendo bene Antonello con il mio P5. Ma stai usando il pedale? Ma stai usando il Sadetta o il mio P5, Antonello? Adesso sto usando il Sadetta in questo momento. Il mio P5 era poco fa. Vedi. No, già sto facendo bene, già sto facendo bene. E io come sto uscendo? Va bene. E questo compagno tra l'MBP5 e col Galassi? Ha voglia. Si fa voglia, ce n'è anche per i maiali. Sì, io. 80 watt. 80 watt, già va bene. E io sempre 4 watt. Dici che sto usando l'MC60, Luca. No, sto usando il MP3 e l'MVP5. Fine, no. Già si intende, ma la gente natalina, stavo già, lo stacco. Se non usi il lock, magari, mi fotti, ma se usi il lock, sei fregato. Ti sei fregato adesso, Natalina. Ragazzi, di essere di Bobo a un figlio. Vedi tu, a voi 30 anni che tratto un gappa, nel 60 lo conosco lontano, anche col PTT, a volte, non so, ma non ho preso a me tutti, la timbre che è quella, c'è un tappo. Guarda, io sto usando praticamente il PTT è quello del 60, no? Però c'è collegato il mixer col microfono da studio. Non si sente lo stacco, vero, anche se uso il lock? No. Vedi, pure sto usando solo il PTT del 60. Kappa. No, così non si sente. 60 sente se è completo, capito? Sì, perché c'è l'alimentazione. Io, mentre così, essendo il microfono da studio, l'alimentazione è disattivata. Kappa. Si conferma, cambio passo. E si conferma, va bene. Aspetta. Guarda. Sì, già sono andato. Kappa. Avanti. Ah, io c'era 10 anni, sì, 80 li ho lavorato io, corsa retta, a Sintonica, Toneranti, Fiavotti. Vero, molto poco. Veglia, 10 anni, copiovi. L'unico baracchino, tanto per dire, l'unico apparecchio a casa, ecco, oggi più qui, 4 toni. 12 anni ho fatto, guarda, male io, quella volta che mi sono trasferito dalla via San Donato, per pagarmi la bolletta della luce ho dovuto darlo, se no, se tranquillo, ero stato ancora vivo qui in Belgio dopo l'apparecchio lì, questo è poco ma sicuro, punto è, non era. Se ricorda bene Natalino ha lavorato anche Adriano, poi Adriano ha usato anche la sua, è successo, dicevo una cosa, te ho riparato, l'apparecchio trovato come uno con mio guadetto. Ma io lo so, sono dei muletti, sono dei muletti, tutti 140 che ho venduto, non ho mai avuto un problema, mai mi hanno chiamato a dire così, così, così, ma anche gli altri, la verità, anche gli altri, sì. mai, sono radio che funzionano bene questo. Va bene, dai, riprendete, io rimango un attimo in quel X che devo fare due cosette e già riprendo subito, vai Natalino. Questo ti piace? Ti piace? Antonio, ciao! La verità non mi piace. Ciao, voi una modulazione ben strana. C'è l'eco che è basso e poi la cosa è normale. Vabbè, il microfono è normale. Il microfono è normale, capo. Sì, ma sento certi microfoni tipo quello di, come ti posso dire, modificati, che servono dei treni. Già lo so, questo è solo il baracchino, capo. Ah, ecco. Già va bene, se è così già va bene, ma tu che è meglio usato così, ma l'era di quegli apparecchi lì è morta, non ne attacca più nessuno. Io questo gente se chi ce l'aveva se la sta vendendo. 200-300 euro sta vendendo, basta farlo fuori. Come sta uscendo adesso? Guarda un po' come mi ascolti adesso, Antonio. Quasi 9:20, radio 5 normale. Normale? Ah, vabbè. E così la radio com'è? Così va meglio. Cappa. E tu fa cosa adesso? Dalle stelle alle stalle è arrivato un Natale. Cosa hai detto, Luca? Ha fatto dalle stelle alle stalle. Perché male sto uscendo, Luca? No, male no, assolutamente. Sto uscendo bene, la verità. A voglia. Ma Natale, se fosse stato a posto di essere lì, nella palazzina a fianco, dove c'è quell'amico mio, avessi fatto 13 direi, la verità, perché c'è la possibilità di piazzare un bel palo senza avere nessun problema. All'ultimo piano sei stato un ambicio, sei stato, la verità. Ehi, vabbè, ci accontentiamo, rapito. Lo so, ma lì era molto facile installare la antenna, anche perché salivi nella palazzina a fianco, non facevi altro che salire sopra le pecore e installare i pali, anche da 2-3 metri avessi installato 4-5 antenne, una in fila all'altra, e da tutto questo palo, eccetera, tutto questo cavo, capito? Lì era una palazzina nuova. È stato bellissimo, se è stato, la verità. Non solo, vabbè, appartamenti molto grandi, però vanno bene, capito? Ci vivi tranquillo, con due persone ci vivi veramente tranquillo. Non sono uscito. Thank you. l'aria, non è per il combinato. Ma lui è. Secondo me sì. Ora, ma lo scendo so. Adesso sì. Boh, non lo so. Ora, sì, adesso mi dice che sto uscendo. Adesso vai benissimo, vai. Anda bene, Meda. Già si vede quando esci. Adesso vi chiedo a Giometta se mi dà in affitto l'ultimo piano. Così, Natali, poi se passare i cavi in discesa, ti passi dal tuo fianco. E fermo così, cosa vuoi ti dica? La vita va bene, lo sai. Passi dalla parte da fianco, dietro il tabacchino. Ci è fermato, sali lì, 3 minuti e fatto. Ho capito. Andrà bene, Meda. Hola. Oh, ci sentiamo dopo, devo uscire. D'accordo, dopo. D'accordo, dopo. Ok, avanti lui. Prega, già siamo qua. Ehi, mi stava facendo difetto il microfono qua. C'è un microfono del cavolo qui. Sì, però l'attività si sa. Forse in alto bisogna piazzarla, oppure se la piazzo fuori dalla finestra sento lo stesso, lui. Attaccata qui alle staffe dell'antenna. Ma dovrebbe funzionare lo stesso, io non l'ho visto dove l'ho messo. Era sopra la ringhiera. Vabbè, tu vai il rugu, io non laggio da razzo, no? Ti ho detto che se non riesco a sbloccare la carrucola, ma col dipolo posso piazzare. Ne ho uno per i 20 di dipolo, ma è basso qua. L'ho messo così tanto per ascoltare un po'. Tu puoi piazzarli solo verticali, proprio. Solo verticale e boom. Purtroppo un casotto lì. No, se riesco a sbloccare la carrucola, uno ce lo salvo su per i 40, dai. Il problema che se vai in trasmissione probabilmente fai chi vuoi di brutta, così. Perché faccio? Sull'antenna ce l'ho piazzo, sopra l'antenna, in punta all'antenna lo metto. Prova, Natalina. Il casotto è lì, e lì è un problema, un grande problema il tuo. Tu dici che faccio TVI se piazzo il dipolo lì? Sì. E allora metti cacchio a posto, ma cosa mi tocca? La cabana di antenna a rivaggio e non usare più la 27. No, ti fai un'antenna a canale a pesca e poi accordi, dopo devi accordare, ma ci puoi andare benissimo anche in 27. Però non hai una giù, capito? L'unica è. Ma è un bel manna, è il problema, la canna da pesca per fare le bande radio amatoriali è un bel manna, quanti metri lunga? Ti serve una canna da pesca da 10 metri, ma non sta lì, come fai se no? Se ti compri direttamente l'antenna multibanda, però è lunga sempre, il casino è quello. Devo trovare un sistema, dai. Perché non vorrei rinunciare ad avere questa che ho sul tetto per la 27. Hai capito cos'è il discorso? Non c'è un'antenna della macchina che faceva 11, 40, 45. Metti una di quelle e si apposta. Un'antenna di macchina, si dice. E già c'è la X1 che fa un po' di bande. Ti metti quella e se la biglietto, scusa. Non sono obbligato a mettere un dipolo lungo. Vabbè, io quello che avevo era 11 metri e 20 per braccio, sono obbligato, no, 10 metri e 20 per braccio era per i 40 metri. L'ho piegato sopra il tetto, poi me l'avevo tagliato con la forbice, figurati. E quindi non me ne frega più niente le cose di fare il dipolo. Però anche le 11, 40, 40, 45 li trovi ancora, ci sono in vendita. anche seconda mano, c'è gente che non sta usando più l'antenna della macchina così, capito? Se la metteva in macchina, ha un creato che fagli un basamento e ti metti quell'antenna lì, che fa 10, 11, 40, 45, basta. Sei tranquillo. No, è il fatto che quella della macchina la devi piazzare per forza in basso, perché se la piazzi in alto vuoi fare una banda azzurro, nel senso che per cambiare banda devi attaccare uno spinotto, capito, là, in quella della macchina. Ah, ho capito. Non sono usati tutti, allora. Vabbè. Qui è proprio la notte che ci sono i 40 metri, cazzo, ci fa vedere forse di guai come intendi di Luca, mi sparano qua. E qual è il problema? Non è che ti sparano a te, no? Tu chieda quello che c'è di fronte alla a quello che lavora con me, già lo sai che sto parlando. Siccome è sull'ultimo piano, a quanto sembra, lo devono aprire, non fai altro che, hai capito, prenditi una scala da 4 metri, sali sopra lì, poi non fai altro che passare il cavo da un palazzo all'altro, hai capito, c'è il cavo, poi scendete un po' come, e fai quello che ti pare ti piace, nessuno se ne accorge. E noi guys, su conto, bisogna vedere se ti danno il rubber messo per piazzare antenne. Non è guys, su conto. Sembra facile, ma non è, Antonella. Bisogna vedere se mi danno il permesso. Tutta quella palazzina già lo sai, perché non geometra, basta chiedere all'amministratore. Tu sai a chi chiedere, capito? Cioè, quello di fronte, non fai altro che telefonare alla... cioè fa telefonare da lui all'amministratore, l'amministratore lo chiede al geometra, se il geometra ti dice sì, installi quello che vuoi, hai capito? Tramite lui, che in pratica serve a lui, hai capito? E poi te le fotti le balle. E adesso vediamo se, siccome deve mettere una bottola il tipo qua, quello dell'ultimo piano, Giuseppe, per poter uscire sul tetto, al limite mi piazzo una canna da pesca multibanda, proprio dove mette la bottola lui, e così ho finito, due verticali e boh, e non piazzo altro. E fai così, io ho la vanta, faccio l'ex 300, e poi c'ho la direttiva, adesso devo staccare perché l'ultimo vento me l'ha piegata in basso, quindi devo staccare. È pesante, pesa cazzo quasi 4 kg e mezzo, figurati, la stacco perché è pericolosa. Nel caso dovesse arrivare qualche bufera di vento. Lascio la X200 che c'è, siccome devono fare il 110% del famoso ristrutturazione, quindi a un certo punto, hai capito? Lascio solo, faccio dall'altra parte un altro paio di gaffe, ci piazzo un altro palo e mi salvo l'altra antenna e basta, non faccio nessun'altra cosa. La direttiva al limite me la conservo perché pesa, cazzo, se non trovo non vale. Ci metterò una di quelle 15-20 elementi per la U e basta. Un motore di quelli da... per l'antenna TV che sono in giri. Lo so, ce l'ho anch'io la X300 nell'altra casa, c'ho la X300, un'altra per V, poi c'ho l'antenna multibanda, c'ho sopra un palo di 10 metri, c'ho la mantova 5, cazzo, lì già c'è il posto, qua è che non per lungo, è lì sul problema, capito? Se non ha voglia. Sì, già lo so quello. La mantova a parte che è pesante. e sono intento molto a toglierla, perché ormai ci ho detto che ciò e non ha giocato a ammazzarmi per dover mantenere il baracchino, quindi mi ordinerò quella Sirio che è lunga 7 metri, è leggera, c'è radiali che sono lunghi un bel po', piatto quella lì e basta, con 6 metri di palo telescopico. Viaggio finito, una volta nascendo perché è troppo pesante, non ne vale manco la pena tenerla. Ho capito. Ha giocavito. Oh Luca, ci sei ancora? Luca? Perché se riusciva a fare quell'antennino che ha fatto lui, a metterlo qua per ascoltare, però dopo mi serve per trasmettere quando prendo quel pezzo di carta. Se me lo danno quel pezzo di carta, qualche antenna la devo mettere. Dovevo aspettare. Se prendi quel pezzo di carta non mica devi stare salendo scendendo ogni 2-3 mesi, no? Aspetta che ti hanno quel pezzo di carta, non fai altro che metterti un'antenna unica e tutte le bande se la abbia in cubo, a un certo punto fa 10, 20, 40, 80, va a far culo, ma almeno se ci metti tirante sei tranquillo. Non c'è bisogno di avere nessuna direttiva, ormai le direttive non usa quasi più nessuno. Ti sistemerai, ti metterai un'antenna, una via 27 L per la 27 e basta. E poi tutto il resto sei tranquillo. Metterò un'antenna multibanda, là. Certo che mi dispiace togliere quella che ho adesso. Questa fa 10, 11 e 12 metri. Quindi volevo piazzare un dipolo per farmi 40 almeno. Ce ne sono già 3 in misu di antenne. Vabbè, non ti bastano. Non mi fate il coso. E poi quando arrivi a 70 anni cosa fai? Chiami il carattrice che ha fatto la scena su in terra. A capire lì a tutti i dini. Pigliati un'antenna che ti faccia tutto. Senza stare a pezzare 50, 60, te ne piace una per la U e V, la metti da una parte, poi l'altra te la fai per le bande dei cametti, che basta, non devi fare nessuna altra cosa, le antenne moriranno lì, non è che ci devi salire a 80 anni a salire sopra il tetto a staccare il cazzo di antenne, ma no, lascia perdere. Che te lo sto dicendo lì? Appena fanno questo 110% immediatamente stacco la mantova, la butto giù, la conservo e mi piazzo un'antenna leggera, c'è la Sirio, quella della 27, l'ultima che hanno fatto, costa 85 euro, è leggera e va benissimo, la sollevo di 6 metri, ho la VU, la X300, poi la direttiva la stacco e me la conservo in garage, non ne piazzo altre antenne, basta, non devo riempire il tetto di antenne, capito? Basta, no? Quello che ho, no, è inutile stare a cosa. Ehi, aspetta Antonio, un attimo di quel Rix che devo fare cosa. Ehi, fai pure. C'è qualcuno qua? Antonio, c'è qualcuno qua? Natalino, Gargamella! Ebbene, Natali, ci sono io, no, mi vuoi? Ma ti voglio, già ti voglio! Andiamo, Catariauro! C'era l'altro Luca qua, c'era Pomponio, mi hanno abbandonato, mi hanno. Andiamo. Davvero, mi andiamo. Frate, mi sto facendo una birretta, frate. E mi sono meglio la canna. Avete parlato in 13. Cos'è che hai detto? Che ti frigge la canna? Mi sono convinto una ganna, ho detto, di ricotta. Grazie. c'era Luca Del Monte e adesso non lo so se è entrato qualche altro. Ciao, sentita Luca Del Monte, ciao Luca. Adesso sta facendo una birretta, pure io sapevo questo. In più mi sto mangiando un panino con la ricotta. Lo mette in Twitch a quello? Sì.